Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Biotestamento, la legge passa alla Camera, ora il testo al Senato, sarà dunque possibile abbandonare le terapie. Anticorruzione, il governo ridimensiona i poteri dell'autority guidata da Raffaele Cantone. Gentiloni a Washington per il primo incontro con Donald Trump, questo può essere l'anno della sconfitta dell'ISIS, dice il primo ministro. Ivrea, il tribunale stabilisce un nesso tra il tumore al cervello e l'uso eccessivo del telefonino. Buonasera da Gigi Donelli, questa sera al microfono, da Cristian Goldoni, da Andrea Roccabella in regia, insomma da tutti noi di Radio 24 per questo consueto appuntamento che fa il punto delle notizie di giornata, poi magari si prende anche il tempo per qualche approfondimento. Allora, senz'altro una notizia importante, il tema dei diritti, di cui peraltro questi in questi momenti anche i rappresentanti del governo rivendicano dei risultati, oggi è segnato dal fronte del biotestamento. Allora direi di cominciare subito con il servizio di Elisabetta Fiorito. Con 326 voti favorevoli, 37 contrari, 4 astenuti, passa il disegno di legge sul biotestamento alla Camera, ma passa con maggioranze variabili. Tra le novità, quella che il paziente potrà rifiutare le cure, ma anche che il medico potrà fare obiezione di coscienza e non staccare la spina. Il disegno di legge introduce anche la DAT, le dichiarazioni anticipate di trattamento. La maggioranza si divide, da una parte il PD che vota insieme a Progressisti e Democratici, a Sinistra Italiana e a Movimento 5 Stelle. Così il capogruppo Dem Ettore Rosato. Non c'è il bianco e il nero, non c'è la verità su queste materie. Questa vuole essere una legge mite, di principi, di garanzie. Dall'altra parte Forza Italia che dice no ma dà libertà di coscienza. Lega e, nella maggioranza, Area Popolare per il fronte cattolico. Maurizio Lupi spiega in aula il perché. Qui l'oggetto non diventa più la tutela della salute e della vita dell'individuo, ma è esattamente il contrario. Come porre fine alla vita. Il disegno di legge passa ora all'esame del Senato. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il governo riduce i poteri di Cantone e scoppia quello che già viene titolato come il caso ANAC, con l'accusa che viene dal Movimento 5 Stelle ma anche da esponenti renziani del PD di aver indebolito la lotta alla corruzione. Sentiamo. Meno poteri all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il Consiglio dei Ministri ridimensiona l'ANAC di Raffaele Cantone e scoppia un caso politico. All'interno del codice degli appalti è stato abrogato il passaggio che attribuiva all'Authority poteri esecutivi, la possibilità cioè di intervenire in casi di macroscopica irregolarità senza aspettare un giudice. Così recitava il comma 2 che all'ANAC aveva conferito questi poteri dopo gli scandali di Expo e Mafia Capitale. Poteri in realtà fino ad ora mai azionati dalla stessa Authority, perché da mettere in campo, spiegano, solo in situazioni estreme e per scongiurare il rischio di gravi illeciti. Una precisazione che non attenua, secondo indiscrezioni, il disappunto dello stesso Cantone e di sicuro non riduce lo scontro politico. Mi auguro sia un errore materiale, è l'auspicio di Stefano Esposito, PD, relatore del correttivo del codice appalti, secondo cui quel comma va reintrodotto perché è uno dei punti qualificanti. È un colpo di spugna, invece, secondo il Movimento 5 Stelle, che mette in associazione l'abrogazione del comma col caso Consip e col colloquio dell'amministratore delegato con lo stesso Cantone. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poco fa Cantone prende atto positivamente dell'impegno politico assunto dal premier Gentiloni, che da Washington in un colloquio telefonico ha sottolineato l'intenzione di porre rimedio alla modifica inserita nel decreto correttivo del codice degli appalti, quindi staremo a vedere fin dalle prossime ore. Intanto ancora altre notizie: la corte d'assise di Caltanissetta presieduta da Antonio Balsamo ha condannato all'ergastolo i boss Salvo Madonia e Vittorio Tutino, imputati della strage in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 uomini della scorta. Condannati a 10 anni i falsi pentiti Francesco Andriotta e Calogero Pulci, accusati di calunnia. I giudici hanno dichiarato estinto per prescritto il reato contestato a Vincenzo Scarantino, pure lui imputato di calunnia. E ora cambiamo tema e veniamo a quello che per molte ore è stata, diciamo, la notizia del giorno. Infatti una sentenza storica col quale il Tribunale di Ivrea ha condannato l'INAIL, l'uso scorretto e prolungato del telefono cellulare può essere una causa del tumore al cervello. Un tumore benigno al nervo acustico che lo ha portato a perdere l'udito a seguito dell'intervento di rimozione. Comincia così la storia di Roberto Romeo, addetto Telecom, che di fronte al mancato riconoscimento della sua patologia come malattia professionale ha fatto causa all'INAIL e ha ottenuto una sentenza che in primo grado stabilisce il nesso causale fra l'uso prolungato e senza precauzioni del cellulare e l'insorgere della malattia. Parla l'avvocato Stefano Bertone. Abbiamo impugnato questo diniego davanti al Tribunale di Ivrea, il dottor Fadda ha emesso questa sentenza di cui attendiamo ancora le motivazioni, che però certamente si basa su una consulenza tecnica d'ufficio che dice effettivamente l'uso intenso di cellulare 3-4 ore al giorno come provato in causa è causativo della malattia oncologica del signor Romeo. La sentenza ha dei precedenti, due casi in Cassazione e certo il tema della potenziale dannosità delle onde elettromagnetiche da dispositivi elettronici non è nuovo nella letteratura medica, ma è la prima volta che un tribunale già in primo grado riconosce un nesso causale chiaro. L'attenzione dunque deve concentrarsi a questo punto, suggeriscono i legali, al lavoro da tempo su questi temi, su informazione e uso consapevole dei cellulari. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. Uso consapevole dei cellulari. Allora, la dottoressa Fiorella Belpoggi, direttrice dell'Istituto Ramazzini di Bologna, studia gli effetti delle radiazioni a radiofrequenza in uso nel sistema di comunicazione della telefonia cellulare e ci dà anche qualche consiglio. Noi dobbiamo pensare al telefono come a una patata bollente. Metteremmo mai una patata bollente attaccata all'orecchio o vicino al corpo? Ci sono delle precauzioni che anch'io in questo momento sto usando, come quella di usare un auricolare a filo, non un auricolare Bluetooth, perché il Bluetooth trasferisce delle onde vere e proprie. Ci vuole l'auricolare col filo. Per gli uomini, per esempio, la sterilità, la scarsa motilità degli spermatozoi e anche la diminuzione nella loro vitalità è stata correlata all'esposizione al telefono cellulare, quindi non tenerlo in tasca in vicinanza dei testicoli. Anche attaccato al cuore, nel taschino proprio sopra il cuore, anche quella è una cattiva abitudine. Guardi che la distanza è inversamente proporzionale al pericolo, in maniera esponenziale, cioè 5 centimetri mi abbassano di distanza, mi abbassano di 25 volte il rischio. È chiaro dunque, 5 centimetri abbattono di 25 volte il rischio. Entro l'anno dunque attesa sul completamento di questo lavoro di ricerca che viene fatto a Bologna in collaborazione con le università americane. Intanto il consiglio è senz'altro utile. Pochi istanti fa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto Paolo Gentiloni alla Casa Bianca, ingresso nord. Noi ci andremo tra qualche minuto in realtà con il nostro corrispondente degli Stati Uniti. Trump, che in questa giornata, come dire, ha già messo parecchia carne al fuoco, a parte l'incontro tra alleati. Uno dei temi caldi è quello del NAFTA, cioè l'accordo commerciale con Messico e Canada e ovviamente Stati Uniti, che fin dalla sua appunto ascesa politica il presidente degli Stati Uniti, allora candidato, ha messo in discussione. Ci torneremo, adesso restiamo ancora in Italia. Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso della Regione Puglia che chiedeva di sospendere l'espianto degli ulivi della zona del gasdotto TAP. Il TAR del Lazio sblocca l'espianto degli ulivi nella zona del microtunnel del gasdotto TAP nel Salento. I giudici amministrativi hanno infatti respinto il ricorso della Regione Puglia contro il Ministero dell'Ambiente. Lo scorso 6 aprile il TAR laziale aveva sospeso l'espianto sino al 19 aprile, fissando l'udienza per la decisione a questa data. E oggi la terza sezione del TAR ha depositato la sentenza. Il ricorso della Regione Puglia si rivela infondato, scrivono i giudici, e il TAR inoltre rileva che la stessa regione con altri uffici ha concesso a TAP l'autorizzazione all'espianto degli ulivi e che i lavori del microtunnel, su cui la regione ha pure mosso obiezione, rientrano in una fase successiva, distinta da quella dell'espianto. Adesso dunque può riprendere l'ultima parte dell'espianto, in quanto restano da portare via temporaneamente solo pochi altri alberi dalla zona dei lavori. Ma i NoTap annunciano una ripresa della mobilitazione. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Melendugno. Giugno Lecce. Ancora notizie battute dalle agenzie internazionali. Due uomini arrestati a Marsiglia martedì. Clément Baour, 23 anni, Mehadin Merabadi, 29, perché sospettati di preparare un attentato, si apprestavano a commettere più azioni terroristiche prima delle elezioni, non quindi un'unica azione kamikaze. Così la Direzione Generale per la Sicurezza Interna, naturalmente francese, lo ricordo, domenica, primo turno delle presidenziali. E a proposito di politica, ma invece tornando da noi in Italia, discussione sulla legge elettorale, PD verso una proposta, sentiamo. A Montecitorio il Partito Democratico prova a sbloccare lo stallo sulla nuova legge elettorale e in Commissione Affari Costituzionali apre ad un nuovo testo alternativo al Mattarellum, tre i pilastri imprescindibili indicati dal capogruppo Fiano, collegi uninominali, premio alla lista e armonizzazione delle soglie di Camera e Senato. Forza Italia applaude, finalmente il PD abbandona il Mattarellum, il dato è tratto, commenta l'Azzurro Sisto. Ora ci sono gli elementi per lavorare ad un testo base, fa sapere il centrista dei Civici e Innovatori Mazziotti Di Celso, relatore della legge elettorale e presidente della commissione, critico invece il Movimento 5 Stelle. Renzi in TV dà l'ok al Legalicum, ma in Parlamento fa l'opposto e propone un'altra legge incostituzionale, attacca il pentastellato Toninelli. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora parliamo di turismo. Il calo, infatti, del turismo nelle regioni colpite dal terremoto è stato in media del 50%, raggiungendo in alcune aree punte di meno 70%. Lo ha detto Francesco Palumbo, direttore generale per il turismo del MIPACT, in una conferenza stampa oggi alla Camera organizzata dalla Federazione Italiana Associazioni Imprese, Viaggi e Turismo. Il servizio. Cali importanti e fisiologici, quelli del settore turistico, da cui però il centro Italia cerca di risollevarsi in ogni modo. La costa regala alle Marche alcune soddisfazioni, anche se non mancano nel resto della regione i problemi, dalla rimozione delle macerie alla scarsa comunicazione sulla sicurezza del territorio. E proprio su questo punto si gioca il rilancio, secondo Emiliano Pigliapoco, presidente Federalberghi Marche. Intavolare una serie di iniziative per far sì che, insomma, non ci sia più quel sentore di area terremotata che insomma è pericoloso andarci. Buone però le prospettive per i prossimi ponti, che daranno una boccata d'ossigeno anche al turismo in Abruzzo, secondo le previsioni del presidente dell'associazione di categoria degli albergatori abruzzesi, Gianmarco Giovannelli. Il fatto che molte famiglie e una buona percentuale di clienti abituali chiamano, riconfermano e riesprimono il desiderio di scegliere nuovamente l'Abruzzo ci fa ben sperare. Inverno pesante per il turismo in Umbria, anche se per maggio e giugno ci sono segnali di ripresa e anche una delle città simbolo del sisma si difende più che bene, come rivela il numero uno di Federalberghi Umbria, Vincenzo Bianconi. Per Pasqua su Norcia l'80% delle camere disponibili sono state occupate. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ovviamente c'è anche occasione per magari ritornare o tornare in questi luoghi bellissimi dell'Italia centrale, informandosi, le possibilità sono moltissime. Abbiamo fatto le 21:15 minuti in questo istante, quindi è tempo di sentire insieme gli aggiornamenti per chi è in viaggio, poi ritorniamo insieme. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Gentiloni a Washington per il primo incontro con Donald Trump. Questo dice può essere l'anno della sconfitta dell'ISIS. Biotestamento, la legge passa alla Camera, ora il testo al Senato, sarà possibile abbandonare le terapie. Anticorruzione, il governo ridimensiona i poteri dell'autority, guidata da Raffaele Cantone. Ivrea, il tribunale stabilisce un nesso tra il tumore al cervello e l'uso eccessivo del telefonino. Ancora buonasera da Gigi Donnelli al microfono, da Cristian Goldoni questa sera, come sempre in assistenza da Andrea Roccabella in regia. Un'altra notizia appena battuta dalle agenzie internazionali ci porta invece in Iran. Mahmoud Ahmadinejad è stato estromesso dalla corsa per le elezioni presidenziali iraniane dal Consiglio dei Guardiani, l'istituzione religiosa per metà nominata dalla guida suprema, l'Ayatollah Khamenei. Così l'annuncio della televisione di Stato pochi momenti fa, dunque una figura politica di primo piano. E naturalmente avremo in tempo di riflettere sulle implicazioni in un quadro internazionale quanto mai complesso. E a proposito di luoghi della complessità e magari anche delle soluzioni, chissà, ci colleghiamo con il nostro Marco Valsagna, corrispondente del Sole 24 Ore, alla Casa Bianca. Buonasera Marco, buongiorno a te. Buonasera a voi. Allora, innanzitutto dici dove sei. Siamo in questo momento nella briefing room della Casa Bianca, in attesa della conferenza stampa congiunta di Donald Trump e Paolo Gentiloni, che avverrà nella East Room fra probabilmente una mezz'oretta. In questo momento è in corso l'incontro, c'è stata già, diciamo, la stretta di mano iniziale, diciamo il convegno iniziale con la fotografia nello studio ovale e le brevi dichiarazioni così di benvenuto, in cui Gentiloni ha detto di aspettare Trump in Sicilia per il G7 di Taormina a maggio, e Trump ha ringraziato e ha detto a sua volta che lo aspettano comunque lunghe discussioni con Gentiloni, e sicuramente l'agenda è fitta qui all'incontro della Bianca e andando avanti poi verso il vertice di Taormina. Ecco, Marco, sentiamo un momento insieme un passaggio del Gentiloni in italiano, quindi che in qualche modo ricorda e ribadisce un classico dei rapporti politici internazionali. Sono rapporti storici a cui teniamo molto, che sono sempre stati il pilastro della nostra politica estera. È importante che si capisca che questi rapporti storici oggi fanno parte anche dei nostri interessi, cioè è interesse dell'Italia in questo momento coltivare questa relazione, perché è fondamentale per gestire le crisi che abbiamo davanti nel Mediterraneo, la stabilizzazione di alcuni paesi, penso alla Libia, che vuol dire anche far fronte ai fenomeni migratori, contrastare i trafficanti di esseri umani e poi per combattere il terrorismo. Do un grande benvenuto al primo ministro italiano, un grande piacere incontrarlo. Abbiamo una lunga discussione da fare. Così pochi istanti fa un'agenzia, appunto Trump, accogliendo il nostro primo ministro. Marco, a proposito di lunghe discussioni, effettivamente insomma sui rapporti generali le parole Gentiloni sono chiarissime, ma quali potrebbero essere i nodi con l'Italia? Ma diciamo che i nodi sono un po' quelli della crisi o le crisi del Mediterraneo, sicuramente la questione della stabilità generale nella regione e quindi la questione della Libia, ma anche la questione della Siria e del terrorismo. In questo contesto anche appunto il ruolo degli alleati occidentali, il ruolo della NATO, il ruolo dei vertici internazionali come appunto il G7. Su questo appunto l'amministrazione di Donald Trump ha mandato nel corso dei suoi primi mesi messaggi così contraddittori, contrastanti. Più di recente è sembrata attenuare i toni e sottolineare così l'importanza delle alleanze, ma restano sicuramente incertezze e confusione, diciamo. Quindi questo tipo di incontri anche così a tu per tu sicuramente sono particolarmente importanti in questo momento per cercare di così chiarire un po' offrire delle schiarite insomma sul clima dei rapporti tra una superpotenza come gli Stati Uniti e i suoi alleati. E Gentiloni stesso ha sottolineato già prima dell'incontro come il vertice del G7 di Taormina sarà particolarmente importante, proprio perché ci saranno numerosi leader nuovi già arrivati o in arrivo, perché oltre a Trump poi ci saranno le elezioni francesi, certo, che offriranno, diciamo, che daranno un nuovo protagonista, un nuovo presidente o presidentessa. Ma volevo chiederti una cosa. Allora, diciamo, l'episodio recente anche più vistoso dei tre mesi di Donald Trump è l'attacco in Siria. Da questo punto di vista, la sensazione è che l'atteggiamento, la risposta del governo italiano sia stato soddisfacente per Trump? Si aspettava più fermezza? Qual è stata l'accoglienza vista appunto da chi vive negli Stati Uniti come te? Ma sicuramente, diciamo, l'attacco, l'amministrazione è stata rimasta soddisfatta dal sostegno così di fondo che c'è stata all'azione americana in Siria, un'azione però ricordiamo che poi la stessa amministrazione ha definito limitata, e quindi un monito diciamo ad Assad, ma non necessariamente un cambio radicale di strategia. E in questo senso anche oggi lo stesso Gentiloni ha sottolineato che nel sostegno, diciamo nel definire giusto l'attacco alla base aerea di Assad come monito per l'uso delle armi chimiche, Gentiloni ha però sottolineato che comunque l'Italia rimane con forza schierata, impegnata a favore di una soluzione politica, e che non ci può essere una soluzione militare in Siria, ma una soluzione politica che deve vedere il rilancio del negoziato, del tavolo negoziale tra opposizione e regime sotto l'egida dell'ONU per poter appunto far avanzare un processo di pace e un cambio eventuale di regime, ma appunto nell'ambito di una soluzione politica e non militare. Quindi diciamo le incognite su quella che è l'orizzonte a questo punto dell'amministrazione Trump e dei rapporti con gli alleati restano perché non è chiaro quale sia a questo punto la strategia per rilanciare davvero questi quali negoziati e quali siano gli sforzi eventuali per cercare di ottenere un atteggiamento costruttivo da parte della Russia. Chiaro, ci sono grande, ancora grande che dove non dimentichiamo, negli stessi giorni il nostro Presidente della Repubblica è stato in visita, anche se ovviamente ha una funzione politica molto diversa. Marco, grazie, noi poi ci risentiamo senz'altro nei tuoi pezzi, l'aggiornamento di questa visita. Nel frattempo ci fa visita Marta Cagnola, però in questo caso non è portatrice di buone notizie. No, non sono portatrice di buone notizie, ma prendete quello che vi dico perché, account ufficiale della prefettura di polizia a Parigi che 17 minuti fa twittava: vi consigliamo di evitare la zona degli Champs-Élysées, e ora dice intervento di polizia in corso sulla zona degli Champs-Élysées, evitate la zona e rispettate le consegne. In questo momento leggo anche dei tweet: vi consigliamo di evitare, ovviamente sono tutti account verificati, il settore degli Champs-Élysées, e poi ancora sempre dalla Francia. Allora, questa è una breaking news della BBC. Due poliziotti feriti in una sparatoria sugli Champs-Élysées. Quindi io lo sto seguendo esattamente così. Marta, continua a farlo, resta con noi per cortesia. Noi adesso così diamo anche tempo. Tra l'altro, nel frattempo viene anche lanciato e confermato da una serie ulteriore di agenzia. Quindi ripeto, colpi d'arma da fuoco sono stati uditi sugli Champs-Élysées e ci sarebbe la conferma ufficiale della morte di un agente di polizia. Naturalmente stiamo parlando di uno dei più celebri viali, non tanto di Parigi, ma del mondo, uno dei grandi centri turistici internazionali. Marta, vuoi secondo aggiungere? Europa, un poliziotto ucciso e un altro ferito. Allora, questa è l'ultima ora che appunto condividiamo, grazie a Marta Cagnola che resta ancora un momento qui con noi. Noi abbiamo un aggiornamento con un altro collega perché ci sono situazioni internazionali in grande movimento, questo ci porta lontana perché riguarda un paese che seguiamo relativamente poco, il Venezuela. Roberto Darin, buonasera intanto. Buonasera a voi tutti. Grazie di aver trovato il tempo anche stasera. Allora, ancora oggi manifestazione e scontri, qual è la situazione? La situazione è molto conflittuale in Venezuela, un paese spaccato in due tra chavisti, eredi dell'ex presidente Hugo Chavez e ora supporter di Maduro, Nicolás Maduro, e oppositori, e scontri violenti, ci sono stati tre morti contestualmente il presidente Maduro ha sequestrato una fabbrica, uno stabilimento di General Motors in Venezuela. Quindi un braccio di ferro dietro a queste manifestazioni continue che si alternano da una parte pro-governo, dall'altra anti-governo, e sullo sfondo appunto una sfida con gli Stati Uniti che Maduro guarda come avversari e nemici da affrontare vis-à-vis, con il supporto di Russia e Cina che sono schierati dalla parte di Maduro. Quindi una uno scontro anche pericoloso, non solo tra due paesi, Venezuela e Stati Uniti, ma anche con l'ombra di due altre superpotenze che si contrappongono agli Stati Uniti in questo momento. Grazie a Roberto Darin per questo aggiornamento, anche lui lo sentiremo nei prossimi giornali radio. Adesso torniamo con Marta Cagnola che ci riporta sull'attualità che arriva da Parigi, dalle Champs-Élysées. Marta. Solo questo, un poliziotto ucciso e un poliziotto ferito dopo una sparatoria, la persona che ha sparato sui poliziotti è stata uccisa. Grazie da Marta Cagnola che sentirete anche nel proseguo di questa trasmissione naturalmente. Ancora una nuova agenzia dice evacuazione in corso sulle Champs-Élysées, ma questo è ovvio che è conseguenza di quanto raccontato, elicotteri che volteggiano sulla zona, polizia che chiede attraverso i media e a tutti i parigini e ai turisti che come di consueto affollano in un giovedì sera di primavera una delle strade più popolari del mondo. La situazione confermerebbe appunto la morte di un agente di polizia, si parla di un secondo agente ferito, scusa Marta forse mi sono distratto sì, si parla di un secondo agente ferito e della morte dell'autore della sparatoria. Queste sono le notizie fornite da Europa e anche dall'agenzia Reuters. 21:28 minuti 30 secondi. Allora adesso facciamo come di consueto il nostro punto invece sul meteo, magari anche in vista di un weekend che si avvicina, e poi naturalmente torniamo con l'attualità internazionale. Avremo tra l'altro un ospite, un fotografo, poi vi darò qualche indicazione anche per vedere le sue immagini, che ci porterà in un'altra parte appunto di queste zone di faglia, di conflitto, forse la più drammatica dell'intera Europa, l'Ucraina orientale, oltre 3 anni di combattimenti, oltre 10.000 morti, terre abbandonate, un conflitto che tra l'altro non trova una soluzione, neanche come dire i passi di una prima di un dialogo per affrontare la soluzione. Parleremo appunto, avremo un testimone oculare di quanto accade e poi naturalmente tutti gli aggiornamenti su Parigi tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Champs-Élysées, un poliziotto e un aggressore ucciso nel corso di una sparatoria. Biotestamento, la legge passa alla Camera, ora il testo al Senato, sarà possibile abbandonare le terapie. Gentiloni a Washington, ricevuto da Donald Trump, il primo ministro italiano dice questo può essere l'anno della sconfitta dell'ISIS. Quando sono le 21:33 minuti, ancora un saluto da Andrea Roccavella in regia, da Cristian Goldoni in assistenza, da Gigi Donelli al microfono, da Marta Cagnola qui con noi che ci aggiorna sul titolo che vi ho dato in apertura di questo blocco, Champs-Élysées, Parigi, sparatoria. Marta. Sì, le notizie sono quelle di un poliziotto ferito, un poliziotto ucciso e anche l'assalitore sarebbe stato ucciso in questa sparatoria avvenuta sugli Champs-Élysées. L'allarme è stato lanciato alle 21:20 dalla prefettura di polizia di Parigi. Su Twitter ha lanciato un allarme, intervento di polizia in corso, evitate il settore. Il settore poi è stato, quindi la zona è stata evacuata e mano a mano sono uscite le notizie, prima quella della sparatoria, poi quella di feriti, poi la notizia appunto di un poliziotto ucciso e un poliziotto ferito, ma sarebbe stato ucciso anche l'assalitore. In questo momento vediamo le immagini dai circuiti internazionali, riprese ovviamente con telefonini, con mezzi di fortuna, degli Champs-Élysées che vengono evacuati, che vengono sgomberati perché è in corso questa operazione di sicurezza. Marta Cagnola resta con noi e ci aggiorna. Intanto saluto Giorgio Bianchi. Buonasera Giorgio. Buonasera Gigi, buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, Giorgio Bianchi è un fotografo, giornalista, è appunto una di quelle persone che nel corso di questi anni, attraverso il lavoro che sta svolgendo, ci permette di tenere anche un contatto su delle zone davvero oscurate della nostra Europa. Potete ovviamente, se non lo conosceste, googolare facilmente Giorgio Bianchi, se ci mettete anche accanto Ucraina, ma altrimenti viene fuori lo stesso e vedete immagini di un conflitto e di una situazione che sembra non sbloccarsi mai. Sono più di 3 anni di guerra. Allora, Donetsk, il cuore dell'Ucraina separatista, un luogo che tu hai imparato a conoscere bene e che oggi appare come, Giorgio? Diciamo che, come ho scritto in un articolo per Difesa Online, che è la testata per la quale, una delle testate con le quali collaboro, diciamo che Donbass è come avere un elefante sporco di fango nel salotto buono di casa, perché è una faccenda incresciosa che di fatto sembra che nessuno voglia vedere. Donetsk è una città spaccata in due: da un lato c'è una vita assolutamente normale, e mentre al confine, diciamo in quella linea di faglia che separa l'Ucraina separatista, quindi il Donbass, dall'Ucraina governativa, c'è l'orrore, perché ci sono delle trincee, ci sono dei soldati che fino a poco tempo fa erano immersi nel fango e nella neve, che combattevano anche a meno 20, meno 25 gradi centigradi. Durante l'avanzata che c'è stata a gennaio-febbraio delle truppe governative, ci sono stati parecchi feriti che sono rimasti sul campo, che poi successivamente sono morti di freddo, perché non è stato possibile, a causa degli intensi bombardamenti, prelevarli per tempo. Quindi parliamo di una situazione orribile, e purtroppo l'Europa in questa situazione non sta giocando un ruolo, perché di fatto non se ne parla, non è nell'agenda politica di nessuno. Diciamo, io adesso sono tornato neanche 15 giorni fa dal Donbass, e mi era andato in visita un volontario italiano, Spartaco, che ha combattuto fin dall'inizio, dal 2014 quindi ad oggi, sempre in prima linea, è stato ferito 3 volte, io ho fatto una storia fotografica su di lui, che adesso è possibile vedere anche sul mio sito. E ricordacelo. Il sito è? Giorgio Bianchi, photojournalist.com. Molto bene. E praticamente niente, quindi in accordo con il governo separatista mi è stata accordata una scorta, mi sono recato lì in trincea da Spartaco per vedere come lavora, perché ho fatto diciamo la sua storia sia nel privato che nella parte in cui combatte, quindi sono stato a casa sua con la sua fidanzata, con i figli di lei, eccetera. Ecco, Giorgio, hai seguito lui, sì. E in una guerra che, come dire, richiama volontari, ne chiama parecchi da volontari stranieri su entrambi i fronti. Sì, da entrambi i lati, diciamo che da un lato ci sono, nel lato governativo ci sono essenzialmente diciamo volontari che provengono dai paesi dell'ex patto di Varsavia, quindi magari estoni, lituani, polacchi, insomma anche di là c'è un po' di tutto, ma anche di qua, diciamo dal lato separatista, io ho incontrato volontari tedeschi, ho incontrato volontari spagnoli, volontari russi ovviamente. Ecco, questo anche perché italiani. Dico che questo conflitto che tendiamo davvero sempre a mettere ai margini, rappresenta invece uno degli elementi più dolorosi della frattura in corso in questo nostro tempo. Giorgio, resta per favore con noi, vorrei con Marta Cagnola aggiornamenti, perché come sai e come credo tu abbia sentito, Giorgio, abbiamo anche un'imprevista notizia di violenza che arriva dalle Champs-Élysées a Parigi. Marta. Si comincia a parlare di probabile atto terroristico, ma si dice anche che potrebbero essere stati 2 gli uomini a colpire, quindi uno colpito a morte e uno che potrebbe essere in fuga. Le notizie sono ancora frammentarie e quello che è certo, lo vediamo anche dalle immagini, è che l'accesso agli Champs-Élysées è parzialmente bloccato, i negozi erano aperti, le persone che erano all'interno dei negozi sono state fatte evacuare, quindi tutta la zona è stata messa in sicurezza. Ormai vediamo appunto nelle immagini l'Arco di Trionfo ovviamente sullo sfondo, e tra la telecamera e l'Arco di Trionfo probabilmente una dozzina di mezzi dei CRS e della polizia francese. Continuiamo naturalmente con gli aggiornamenti. A Giorgio Bianchi, che lo ricordo è il nostro ospite ed è un fotografo, e potete trovare le sue immagini, come si dice a volte le immagini contano più delle parole, beh, nel suo caso è sicuramente anche quello vero. Tu hai lavorato su entrambi i fronti, però attualmente diventa molto difficile continuare a farlo, insomma di fatto la parte ucraina non ti accoglie più volentieri. Diciamo che io ero a Maidan durante gli scontri nel febbraio 2014 e diciamo ho assistito tutta la rivolta che poi ha portato al cambiamento di governo. E l'anno successivo decisi di visitare entrambi i fronti, cioè volevo, quando oramai era scoppiata la guerra e oramai si combatteva su opposte linee, volevo fare un reportage da un lato e dall'altro della trincea. Diciamo che dal lato ucraino non mi è stato consentito di fare nulla, nonostante fossi accreditato presso il Ministero degli Interni eccetera. Dopodiché mi sono spostato con un autobus pubblico nel lato separatista. Diciamo, questo fatto di aver passato il confine ha fatto sì che io venissi inserito in una blacklist. Sono stato contattato dalla Farnesina che mi diceva che esisteva appunto questa lista riservata, nel quale tra l'altro c'erano 7.000 giornalisti di tutte le parti del mondo, e mi dicevano che per 5 anni io non avrei potuto andare nell'Ucraina governativa. Quando poi chiesero chiarimenti, perché io avevo spiegato che io ho fatto tutto secondo regole, eccetera, al governo. E che volevi fare il tuo lavoro di documentare quanto accadeva? Assolutamente. Il governo di Kiev ha risposto che di fatto questa lista non esisteva, ma il funzionario della Farnesina mi sconsigliò caldamente di andare. Ecco, per i nostri ascoltatori, questo vi dà anche l'idea della complessità e della, ovviamente, dell'acrimonia, del dolore che circonda questo conflitto. Marta Cagnola, che è qui davanti a me stasera per parlare di tutt'altri temi, è un discorso che abbiamo affrontato spesso. Tra pochi giorni c'è un concorso musicale che dovrebbe essere l'occasione l'Eurovision. Sì, quindi è una grande festa della musica in quest'ultima puntata, che si terrà a Kiev tra pochi giorni. È appena stata, ormai da qualche giorno, esclusa la cantante russa, ed è stata esclusa perché ha tenuto un concerto perché in Crimea. Perché si era esibita in Crimea senza autorizzazione ucraina. Rendiamoci conto di che tipo anche di pressione vengono poi sottoposti le persone. Prego. Io anche di più, quest'ultimo viaggio ho intervistato un cacciatore professionista, Artem Evlanov, che ha militato in campionati di Serie A sia in Ucraina ma anche in Russia eccetera, quindi un professionista ad alti livelli. Quando è scoppiata la guerra lui ha deciso di rimanere nella sua città, cioè a Donetsk, e praticamente per aver fatto questo, essere rimasto vicino alla sua famiglia e non essere voluto andare via dal Donbass, è stato squalificato a vita dalla Federazione Ucraina. Insomma, questo è anche il contesto. Allora, io vi ricordo, e lo faccio con piacere, di seguire anche il lavoro dei colleghi, dei fotogiornalisti che, come Giorgio Bianchi, che ringrazio davvero molto di essere stato con noi questa sera, attraverso il loro lavoro cercano di continuare a illuminare delle zone che sono vicine, tutto sommato, ma molto in ombra. Grazie Giorgio, buon lavoro alla prossima occasione. Adesso io sentirei gli aggiornamenti con Marta Cagnola, da Parigi naturalmente. Allora, la polizia di Parigi conferma, un poliziotto è stato ucciso e un altro è rimasto ferito. Tutto è successo sugli Champs-Élysées, davanti al numero 104, quindi nella prossimità del grande magazzino Marks & Spencer. I colpi si sono uditi anche all'interno del grande magazzino e testimoni parlano di due autori della sparatoria. Uno dei due uomini sarebbe deceduto, uno dei due uomini che hanno cominciato a sparare, dell'altro non si sa nulla, quindi potrebbe essere in fuga. Tutto quello però che si può sapere è appunto che in questo momento la zona è in corso di evacuazione, le persone che si trovavano all'interno dei negozi sono state fatte uscire dall'area e tutto è bloccato, però la polizia in questo momento ha confermato solo questi dati. Si comincia a parlare di un possibile atto terroristico, ma non c'è nessun virgolettato di alcuna autorità che lo riferisca. Ecco, lo abbiamo detto all'inizio di questo appuntamento, insomma l'abbiamo detto in realtà un sacco di volte anche nel corso della giornata, siamo di fatto a 48 ore dal voto del primo turno delle elezioni francesi. Ieri un comizio importante, quello di Marine Le Pen a Marsiglia, con momenti di tensione molto forti, così il giorno precedente sia per quanto accaduto a Parigi-Bercy intorno alla grande chiamata dei fedeli di Macron, uno dei candidati, appunto, uno dei quattro personaggi che oggi appaiono papabili per l'Eliseo, e proprio nelle stesse ore di questi grandi comizi, insomma, operazioni di polizia molto importanti con arresti che proprio circa un'ora fa venivano indicati dalle forze di sicurezza francese come il preludio, il tentativo, appunto, da parte di cellule terroristiche di colpire il paese. Marta. Si parla di spari con un Kalashnikov. Tutto questo quando sono le 21:45 minuti. Allora io direi che ci sentiamo insieme gli aggiornamenti per chi è un viaggio, che sono sempre utili per vedere se la situazione è tranquilla. Poi torniamo con Marta Cagnola, con altri ospiti. Cerchiamo, magari, se riusciamo a trovare il tempo, anche di toccare dei temi più lievi, naturalmente, se la cronaca ce lo permette. A tra poco. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Champs-Élysées, attacco davanti ai grandi magazzini, spari e colpi di Kalashnikov in un parcheggio, in corso le prime ricostruzioni. Biotestamento, la legge passa alla Camera, ora il testo al Senato, sarà possibile abbandonare le terapie. Anticorruzione, il governo ridimensiona i poteri dell'autority guidata da Raffaele Cantone. Gentiloni a Washington incontra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dice questo può essere l'anno della sconfitta dell'ISIS. Ancora buonasera da Andrea Roccabella in regia, da Cristian Goldoni in assistenza, da Gigi Donelli al microfono, da Marta Cagnola che ci sta aggiornando su quanto accade invece a Parigi. Marta, quali sono le ultime? Non ci sono aggiornamenti, allora tutto è avvenuto poco dopo le 21 sugli Champs-Élysées all'altezza del numero civico 104, cioè all'altezza dei grandi magazzini Marks & Spencer. Probabilmente due uomini hanno sparato, si parla dell'utilizzo di un Kalashnikov. Poliziotti colpiti, uno confermato deceduto, uno ferito. La zona è stata chiusa, tutte le persone che si trovavano all'interno dei negozi sono stati evacuati. Alle 21:20 la prefettura di polizia aveva diramato un allarme via Twitter chiedendo alle persone di stare lontane dalla zona. Un elicottero della prefettura sta sorvolando. Non si sa se davvero gli sparatori erano due, se il secondo è in fuga. Grazie a Marta Cagnola che resta con noi. Come vi avevamo anticipato, vorremmo anche, come dire, alternare, nonostante le notizie drammatiche, invece dei temi che ci permettono anche di respirare intorno alla cronaca. Uno di questi è sicuramente l'attesa per una delle gare più belle del mondo della montagna, per quello che per molti sci alpinisti è davvero un sogno, e mi riferisco al trofeo Mezzalama. Abbiamo con noi il direttore, l'organizzatore di questa grande gara, Adriano Favre. Buonasera Adriano, bentornato. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Gli ascoltatori di Radio 24 non solo conoscono Adriano Favre soprattutto nella veste dell'uomo in quanto capo delle guide di Courmayeur, che ci fa il punto sulle valanghe e situazioni complicate, no? Adriano, spesso e volentieri i tuoi interventi purtroppo sono questi, no? Questo lo dico così, perché, come dire, questa voce la conosco benissimo, è la stessa persona, e tra i suoi mille impegni c'è anche questa grande passione che è il Mezzalama. Si corre una volta ogni due anni, l'appuntamento è per venerdì mattina, a che ora? Allora, sabato mattina alle 5:30 c'è la partenza di questi 900 atleti che si sfideranno sulle nevi del Monte Rosa, partendo dai piedi del Cervino arrivando fino a Gressoney. Perché il Mezzalama è considerato, come dire, ho detto, un sogno per tanti sci alpinisti? Cosa lo rende tale? Ma è un sogno, un mito, perché viene da molto lontano, quindi la prima edizione è stata nel 1933, pensate, e niente, mantiene questo suo appeal nel mondo dello sci alpinismo, perché si corre in un ambiente incredibile, quindi salire le due montagne oltre i 4.000 metri, un terreno glaciale, obbliga all'utilizzo della corda, squadre da tre persone che sono sempre difficili da mettere insieme per la duplicazione, di trovare persone con, di uguale forza, di uguale capacità atletica, e tutto questo fa sì che il Mezzalama mantenga questa sua interesse da parte del mondo sci-alpinistico. Piccolo promemoria, sviluppo complessivo, quanti chilometri? Sono oltre 40 chilometri. Ma ci sono 2800 metri di dislivello, oltre i 2800 da percorrere in salita e più di 3000 in discesa. Ok, i vincitori di due edizioni fa, tanto per darci un'idea dei tempi, quante ci hanno messo? Ma ci mettono 4 ore e mezza. Ecco, questo per dare, perché si capisce dalle anche condizioni della montagna. Chiaro, perché parliamo anche davvero del primo livello di questi atleti. Vorrei chiederti una cosa, la sensazione potrebbe essere che insomma si dà il via, tutti vanno. Io invece ho visto il lavoro preparatorio straordinario che fate, complesso. Cosa vuol dire attrezzare in qualche modo, mettere in sicurezza questo percorso? Ma vuol dire conoscere innanzitutto a fondo la montagna, quindi non solo la devo conoscere io, ma la devono conoscere anche tutti i miei collaboratori, le altre guide professioniste che si occupano proprio di preparare metro per metro il percorso. Bisogna in qualche maniera addomesticare la montagna per far sì che la competizione si svolga con tutti i migliori canoni di sicurezza, perché un conto è affrontare la montagna, una cordata che la percorre, che è, diciamo così, amatoriale, a livello amatoriale, invece percorrere la montagna in una gara. Quindi bisogna essere in condizioni di poter esprimere il massimo dal punto di vista atletico e non dover pensare in modo particolare alla sicurezza, ma qualcun altro ci deve pensare. E per questo ci siete voi, e anche una quantità importante di appassionati, di sostenitori che ruotano. Sì, noi abbiamo una cinquantina di guide che saranno sul percorso sabato, più un altro nutrito gruppo tra volontari del soccorso alpino, medici e tutti questi volontari che si sottopongono a giornate veramente intense di lavoro, perché ricordiamoci soprattutto che in questi giorni ci sono delle condizioni meteo belle dal punto di vista così del cielo sereno, ma molto molto fredde, venti forti che stressano molto dal punto di vista fisico. Ecco, appunto, il meteo per sabato mattina cosa si prevede? Si prevede una giornata con cielo sereno, purtroppo con un po' di vento, quindi 50-60 km orari di vento e quei 10-12 gradi sotto zero, ma che con l'azione del vento diciamo si aggraveranno, si intensificheranno ancora un po' di più. Perciò per gli atleti sarà una prova molto severa, molto selettiva. E per tutti quelli naturalmente che lavorano intorno al comando di Adriano Favre e i suoi, grazie Adriano, in bocca al lupo. E grazie mille. Dunque si può seguire, lo dico anche per gli ascoltatori, attraverso il web, anche in questo caso Google è molto pratico per gli aggiornamenti e per vedere le immagini straordinarie di questa gelida gara. Grazie Adriano Favre, sono le 21:54 minuti, torniamo con Marta Cagnola a aggiornamenti, lo ricordiamo. Questa edizione, di fatto poco dopo l'inizio, è stata segnata dalle notizie che arrivano dagli Champs-Élysées. Marta. Allora, si parla di possibile pista terroristica, ma la fonte indicata dai media francesi è una fonte vicino alla polizia, quindi non ci sono virgolettati ufficiali, non ci sono prese di posizioni ufficiali. L'assalitore è stato ucciso, è stato abbattuto, e questa è una notizia fornita dal Ministero dell'Interno. In azione ci sono le BRI, cioè le brigate che sono entrate ad esempio in azione per l'attentato del Bataclan. Champs-Élysées, stiamo parlando della parte degli Champs-Élysées con la maggior parte dei negozi e dei ristoranti, è la zona anche dei grandi magazzini. Infatti tutto questo è successo poco dopo le 21 all'altezza del numero 104, cioè dove c'è il grande magazzino di Marks & Spencer. Nessuna pista è scartata, criminale o terroristica, dice in questo momento una fonte dell'Alleanza della Polizia Nazionale, e appunto spiegano che la brigata di ricerca e di intervento è in questo momento sur place, sul luogo. Chiusa anche la stazione della metropolitana americana, Franklin Roosevelt, chiusa e naturalmente la fermata è appunto in un angolo del lunghissimo viale, nella parte piuttosto vicina all'Arco di Trionfo. Insomma, una situazione di altissima tensione in una città che nel corso degli ultimi anni, nel corso degli ultimi due anni è stata purtroppo a bersaglio. Chiedo scusa, i nostri telefoni di tecnologia a volte parlano con noi anche quando non sono interpellati, ma credo che conoscerete il problema. Dunque, la sparatoria di Parigi, dicevo, in una città segnata dal terrorismo, in una città che si appresta ad affrontare il voto, un voto davvero importante, un voto, e colgo l'occasione per approfittare e ricordarvi che ovviamente lo seguiremo nel corso del primo e nel secondo turno con i nostri inviati, con gli speciali, un voto che assume un'importanza che va ben oltre la Francia stessa, ma che ha delle grosse implicazioni invece internazionali e per il futuro dell'Europa. Marta? Secondo alcuni testimoni, il secondo uomo a sparare sarebbe scappato nel parcheggio sotterraneo dei grandi magazzini. Bene, sono ormai le 21:57. Avevamo un appuntamento, e mi scuso con Elisabetta Fiorito, per approfondire quella che appariva legittimamente la notizia di apertura, il biotestamento, una legge che passa alla Camera e che inizia di fatto a cambiare quello che è anche una cultura del trattamento delle malattie terminali nel nostro paese. Avremo modo di tornarci, avrete modo fin dalle prossime edizioni di sentire i servizi di Elisabetta Fiorito su questo tema. Abbiamo ancora forse una battuta, Marta? Sì, intanto su France 2 sta continuando il dibattito sulle presidenziali, non è stato fatto cenno a quello che è successo, probabilmente per non interferire sul dibattito. Non ci sono certezze, dice un'ultima agenzia. Un poliziotto ha riferito ai giornalisti presenti sulle Champs-Élysées che sono in corso accertamenti per stabilire la natura criminale o terroristica, perché naturalmente noi ormai siamo quasi automaticamente propensi a pensare ad episodi terroristici, ma ci sono anche, come dire, quelli tradizionali della criminalità. Di certo viene confermata la morte di un poliziotto e di uno degli assalitori. E con questo abbiamo fatto le 21:58, è tempo di chiudere. Da Gigi Donnelli, da Andrea Roccabella, da Cristian Goldoni un saluto, grazie a Marta Cagnola, tutti gli aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni di GR24.